Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, un mese fa moriva Marco Pannella e lo ricordiamo con un libro su un tema che gli era molto caro, un tema scomodo che però non manca mai di infiammare gli animi, il tema del processo penale e in particolare della pena dell'ergastolo. E ne parla di questo tema un magistrato che di ergastoli ne ha inflitti parecchi, che ha avuto anche poi importanti incarichi istituzionali, è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura e senatore. Il suo nome è Elvio Fassone. E nel 1985 Fassone a Torino è presidente di Corte d'Assise, la corte davanti alla quale si svolge un maxi processo alla mafia catanese. Tra i 242 imputati ce n'è uno, Salvatore, crudele, giovane, 27 anni, molto sveglio, imputato di vari delitti che formano, scrive Fassone, un curriculum criminale la cui lunghezza si misura a spanne. Dopo quasi 2 anni di processo, Salvatore è condannato all'ergastolo e Fassone pensa di aver esaurito il suo incarico, ma invece nasce proprio da lì, dal momento successivo alla condanna, un rapporto epistolare che durerà 26 anni tra il giudice e Salvatore, un rapporto fitto di oltre 1500 lettere nelle quali il giudice e il suo ergastolano fissano le tappe di un cambiamento e di una speranza. È il giudice a rompere il ghiaccio, a scrivere a Salvatore, gli invia un libro privato, Siddhartha di esse, e da qui nasce un epistolario che rafforzerà il giurista nella sua contrarietà all'ergastolo, per l'abolizione del quale si batterà anche da parlamentare. Salvatore certamente in quei 26 anni cambia, cerca di adattarsi, di trovare sbocchi alla sua esistenza, ma incappa sempre in qualche nuova misura e in qualche equivoco, in qualche autentico colpo di sfortuna che rende sempre più lontana l'ipotesi di una sua liberazione e quindi sempre più ferrea la sua condizione di ergastolano, tanto che a un certo punto tenterà il suicidio. E questa storia Fassone racconta nel libro di cui vi parlo adesso, Fine pena ora, pubblicato da Sellerio, 206 pagine, 14 euro, sul quale adesso sentiamo l'autore. Buonasera a Elvio Fassone. Buonasera. Elvio Fassone, innanzitutto una curiosità, quello che lei diede, inflisse a Salvatore, fu il suo primo ergastolo? In verità fu il primo, sia pure insieme a parecchi altri, perché il processo si concluse con una raffica di ergastoli, purtroppo. E questo ergastolo, possiamo dire, le ha un po' cambiato la vita? Sì, mi ha cambiato la vita quel processo, perché fu un'esperienza effettivamente unica, credo non solo nel caso mio, ecco, ma chi si trova a gestire quei maxi processi che durano anni, indubbiamente ha un episodio significativo della propria vita. Ma si sarebbe mai aspettato che nascesse questo rapporto con Salvatore e soprattutto potesse avere luogo questa trasformazione di Salvatore alla quale lei assiste quasi impotente perché è così lontano e così esterno? No, cioè mi sarei aspettato senz'altro che si instaurasse un qualche rapporto, perché nel processo che fu appunto molto lungo lui venne più volte a cercarmi, mi confidò alcuni particolari della sua esistenza che mi fecero capire che voleva in qualche modo instaurare un rapporto quasi di figliolanza con me. Poi finito il processo, proprio perché si era concluso in quel modo traumatizzante, mi venne questo gesto non meditato e non controllato, cioè gli scrivo, e di lì è nato un rapporto che dura tuttora dopo quasi 28 anni. E che infine ha fatto scoprire, come lei scrive, degli ergastolani in fondo noi non sappiamo poi nulla, perché lei scrive che alcune cose sulla vita di un ergastolano che normalmente non emergono. Ecco, quindi rappresentano un mondo completamente avulso, del quale parliamo senza conoscerlo. Sì, in effetti c'è questa caratteristica, che il nostro processo finisce quando si spengono le luci, cioè quando è pronunciata la sentenza, quando l'interesse e la curiosità viene meno, mentre invece comincia per coloro che ne sono i protagonisti reali, che non sono certamente i magistrati, sono i condannati. E questo mondo è un mondo molto particolare, molto difficile, e con delle sorprese, perché è chiaro, tutti noi cambiamo e anche il detenuto cambia dopo un anno, 5 anni, tanto più 10 o 20 anni, non è più certamente quella persona, ed è quello che autorizza le riflessioni che ho proposto. E a un certo punto la sorpresa può essere anche una sorpresa drammatica, come quando appunto Salvatore cerca di suicidarsi. Sì, perché purtroppo l'istituzione, senza colpevolizzare nessuno, ma non può umanamente seguire e non ha gli strumenti per seguire i percorsi individuali di ciascuno, no? C'è chi continua imperterrito in quel mondo di disvalori che è il crimine, e chi invece cambia, chi decide di cambiare, e quando decide di cambiare è come se facesse un'apertura di credito alla società e dopo un po' fosse in attesa che questo credito viene saziato, soddisfatto, cioè io ho pagato. Infatti nel gergo si dice sempre, si usano sempre il verbo pagare, no? Io ho pagato il giusto, adesso è ora che vi ricordiate che esisto come uomo, come persona. E tante volte questo non c'è, perché come scrivo nel libro non c'è lo psicoscopio che autorizzi chi sta fuori ad accertare cosa è successo nell'anima del detenuto. E all'esterno poi ci sono degli elementi di carattere giuridico che ostacolano questo processo. Lei a un certo punto introduce un concetto tecnico che però è molto importante, quello dell'ergastolo ostativo, che sostanzialmente ha riportato, esatto, in vita l'ergastolo definitivo. Esatto, l'ergastolo ostativo è purtroppo una sciagura, direi inevitabile in un certo senso, introdotta nel 92 dopo le stragi di Falcone e di Borsellino, ed è purtroppo il ripristino di quella frase angosciante che sembrava cancellata: fine pena mai. L'avere un fine pena mai significa uccidere la speranza e quindi uccidere la persona, tant'è vero che spesse volte si parla di una pena di morte mascherata, anche se forse c'è un'iperbole, ma ciò non toglie che sia necessario ripensare a questo giro di vita pesante che fu introdotto più di 20 anni fa. E lei fa delle proposte alla fine della sua storia con Salvatore, di Salvatore meglio, fa delle proposte di riforma, partendo da un dato, e cioè che l'opinione pubblica sostanzialmente è contraria ad abolire l'ergastolo, però dice lei stesso qualche cosa si potrebbe fare. In che direzione si potrebbe andare? Credo di sì, cioè per esempio in questi giorni in cui siamo tutti traumatizzati da un particolare omicidio efferatissimo, bastano fatti di questo genere per produrre una reazione, e no, non si può essere indulgenti con dei mostri del genere, e questo in qualche modo va compreso, o se non altro va subito, perché una legge deve riflettere i sentimenti della comunità. Però appunto ciò che propongo è di recuperare questa dimensione del tempo che passa e di noi che cambiamo. Noi stessi 10 anni fa eravamo diversi, tanto più 20 anni fa, tanto più 30 anni fa, e quindi seguire il percorso del detenuto e praticargli delle vie d'uscita possibili, questo è non solo possibile ma necessario. Oltretutto ce lo chiede non solo la nostra Costituzione, ma ce lo chiede l'Europa in modo ormai perentorio, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 3 anni fa appunto ha affermato che gli Stati possono nella loro legislazione interna prevedere l'ergastolo oppure no, ma se lo prevedono devono prevedere una via d'uscita dopo 25 anni, il che non significa metterli fuori automaticamente, ma metterli fuori salvo che ci siano ragionevoli argomenti in contrario. E a questo punto lei propone una coraggiosa inversione dell'onere della prova, cioè scrive: non è l'ergastolano che deve dimostrare di essere cambiato, ma è lo Stato che deve argomentare ragionevolmente la necessità del protrarsi della detenzione. In effetti, sì, l'immagine anche quella può essere discussa. Quello che mi interessava affermare sulla base di questa pronuncia della Corte Europea è che 25 anni sono una presunzione di pena sufficiente. Poi ci può essere il delinquente incallito, per cui non sono sufficienti, ma normalmente devono essere sufficienti. E allora appunto si proceda ad un esame globale della personalità, non guardando i reati di 25 anni prima, ma guardando il percorso di questi 25 anni. In questo modo io penso che la larga maggioranza degli ergastolani potrebbe accedere ad un fine pena vicino. E lei infatti stabilisce un principio anche di civiltà giuridica, quasi di filosofia del diritto, perché scrive che il perdono a determinate condizioni è espressione di una moralità superiore alla pura giustizia retributiva. Forse anche questo è un principio impopolare. Ma quando le persone vengono prese per mano e condotte a riflettere, io ho constatato una grande disponibilità ad accogliere questo. In fondo, aggiungere altra sofferenza non cancella la loro, mentre la riconciliazione, quando è possibile, quando ce ne sono i presupposti, la riconciliazione è l'unica cosa che veramente pacifica il condannato e la vittima. E quindi la sua affermazione che occorrerebbe un supplemento d'anima può dare adito a qualche speranza? Me lo auguro, perlomeno, se posso dirlo, in questi mesi in cui il libro mi ha procurato tanti contatti, ho constatato un, non so se posso chiamarlo un movimento di opinione, ma quantomeno un incipiente movimento di opinione disposto ad accettare questa soluzione che tenga presente entrambe le esigenze, quella della collettività ferita, che non può essere richiesta di un perdono subito, ma quella di un'umanità recuperata che ha diritto di tornare a far parte dell'umanità. Grazie a Elvio Fassone, autore di Fine Pena Ora. Buona serata. Buonasera. Un altro magistrato che ha lasciato la carriera è Leonardo Rinella, che ha diretto la procura circondariale di Trani e che ha scritto Il processo penale al tempo del pretore, pubblicato da Progedit, 56 pagine, 12 euro. Qui l'autore esamina il nuovo processo penale, così come fu riformato nel 1989, quando si avviò una nuova forma di processo che avrebbe portato all'eliminazione nel 1998 della figura del pretore. Il magistrato qui manifesta la delusione per molte speranze che quella riforma aveva sollevato, soprattutto per la svolta garantista che allora era stata promessa, e qui nel libro commenta le frequenti violazioni al segreto istruttorio, presenta le strutture di come il sistema si sia andato attuando. Insomma, Rinella conclude che il processo, nonostante i lodevoli intenti del legislatore costituzionale del 1999, è sempre meno giusto, soprattutto nei confronti delle persone offese, che vengono sempre più disattese nella richiesta di ottenere giustizia. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Vi segnalo adesso alcuni libri che piaceranno agli smanettoni, o insomma alcuni libri che affrontano il tema del nostro rapporto con la tecnologia e soprattutto con la rete e con i social network. Cominciamo dalla formula che sta rivoluzionando il nostro rapporto con gli altri e che è l'algoritmo. L'algoritmo è quello che sui social network appunto provvede a costruire un perfetto profilo di ciascuno di noi, che diventiamo così oggetto di informazioni ma anche di offerte pubblicitarie, di servizi che dovrebbero corrispondere ai nostri gusti e alle nostre preferenze. E l'algoritmo quindi offre un grande servizio, ma può assumere anche dei tratti inquietanti, soprattutto appunto per la scarsa consapevolezza del fenomeno e per la scarsa trasparenza su chi tratti e su come vengono trattati tutti i dati che vengono raccolti intorno a noi. E allora meglio fare i conti con questa realtà. E allora vi segnalo il libro di uno studioso lusitano-americano, Pedro Domingos, che ha scritto L'algoritmo definitivo, la macchina che impara da sola il futuro del nostro mondo, è pubblicato da Bollati Boringhieri, 358 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Andrea Migliori. Siamo entrati, dice l'autore, in una fase nuova, ormai gli algoritmi capiscono dai dati, scrive, ciò che devono fare. Il machine learning è dunque una frontiera ormai raggiunta. E le prime pagine del libro di Domingos descrivono appunto la giornata tipo di ciascuno di noi e ci fa accogliere attraverso questi comportamenti e attraverso quello che c'è dietro questi comportamenti e il modo in cui l'algoritmo domina queste nostre scelte, ci fa capire la pervasività dell'azione degli algoritmi e della macchina che imparano, macchine che rappresentano una tecnologia che si costruisce da sé. E allora i problemi sono molto diversi rispetto a quelli ai quali si rivolge Domingos, che ci illustra la rivoluzione in atto, le sfide e tutti i rischi che questa rivoluzione comporta. E sul tema degli algoritmi vi segnalo il libro molto divulgativo di Marco Malvaldi, l'autore del Barlume, e di Dino Leporini, che è un fisico, Capra e calcoli, l'eterna lotta tra gli algoritmi e il caos, è pubblicato dalla Terza, 178 pagine, 11 euro. Qui troviamo la storia degli sviluppi che hanno condotto all'affermazione degli algoritmi e naturalmente le prospettive che ci aspettano. Per esempio, nel libro si parla della disoccupazione tecnologica che richiederà, per essere combattuta, una formazione sempre più aggiornata e generalizzata. E a proposito di formazione, che cosa rappresenterà l'apporto di internet sulla cultura? Tenta una risposta un padre gesuita, Giovanni Cucci, nel libro Internet e cultura, nuove opportunità e nuove insidie, pubblicato da Ancora, 192 pagine, 16,50 euro. Le nuove tecnologie favoriranno la diffusione della cultura, si chiede l'autore. Il tema non è nuovo. Abbiamo sempre notato che non sia automatico che una maggiore ricchezza di dati e informazioni promuova le abilità intellettuali, scrive l'autore. I grandi filosofi e letterati avevano a disposizione un patrimonio di libri e di informazioni nettamente inferiore a quello dell'odierno studente universitario, eppure le opere degli antichi ancora oggi ci sorprendono per la freschezza e profondità delle loro riflessioni. Quindi, conclude padre Cucci, la mole immensa di dati a disposizione non rappresenta necessariamente un vantaggio, anzi sta diventando un problema rilevante. Occorre quindi vincere il rischio dell'indigestione delle informazioni e procedere con un approccio virtuoso al virtuale, come scrive l'autore. E padre Cucci ci parla della rivoluzione culturale in corso sul web, dei rischi connessi. Per esempio, si chiede se il digitale sia di aiuto o di ostacolo per i nativi digitali. Affronta le nuove forme di apprendimento, esamina un tema particolarmente attuale, quello del binomio tra internet e politica, e ci parla della sfida culturale rappresentata dai videogiochi. E sentiamo dal libro alcune righe sul valore della lettura tradizionale che egli rivendica. Gli amanti della lettura, alcuni dei quali divenuti in seguito anche grandi scrittori, quando parlano del proprio percorso intellettuale rilevano soprattutto l'importanza del dialogo e della ripetizione. Elias Canetti cominciò ad appassionarsi alla letteratura quando da piccolo venne invitato dalla madre a leggere ad alta voce le opere di Shakespeare. Fu un'esperienza così bella da trasmettergli la sensazione che il tempo si fosse fermato e di entrare in intima comunione con la madre. George Steiner si esprime in termini molto simili quando ricorda con gratitudine l'abilità del padre di appassionarlo alla lettura. Lettura, meglio se ad alta voce, ripetizione, meglio se scritta, rielaborazione. Passi indispensabili che si ritrovano nei percorsi di vita di chi ha scoperto il valore inestimabile della cultura. Ma soprattutto lettura lenta, condotta senza fretta di concludere, lasciando tempo e spazio per le annotazioni personali, animati dal desiderio di notare sempre più cose. Questa attività trasforma profondamente il lettore, plasmando il suo pensiero, il suo essere e la maniera di vedere la vita. L'algoritmo dunque domina la nostra presenza nella rete e sui social network, ma ci rendiamo conto di questa forza dell'algoritmo? Sappiamo che cosa rappresenti? Cogliamo completamente tutti i rischi connessi a questa nostra iperesposizione? Rispondono due libri che pubblica il Mulino. Il primo è di Giuseppe Riva, che è uno psicologo della comunicazione all'Università Cattolica di Milano, si intitola I social network, 194 pagine, 14 euro. Cominciamo dai dati. Secondo gli ultimi dati AudiWeb, scrive l'autore, quasi 30 milioni di italiani accedono almeno una volta al mese a internet e più di 20 milioni navigano tutti i giorni con una permanenza media che sfiora le 2 ore. Ci dà un dato in particolare: il 24 agosto 2015, per la prima volta oltre 1 miliardo di persone ha effettuato nella stessa giornata l'accesso a Facebook. Allora, che cosa rappresenta questo fenomeno così pervasivo sulle forme di socializzazione e di comunicazione, e in particolare l'utilizzo dei social network, che impatto può avere? Si parte nel libro dalla definizione di social network, dalla descrizione delle potenzialità, dal modo in cui cambiano le nostre posizioni nella rete sociale. I social network, scrive l'autore, sono degli spazi sociali ibridi, perché il cyberspazio nel quale operano hanno comunque caratteristiche delle reti sociali tradizionali, cioè interazione, supporto e controllo sociale, con le caratteristiche del web: multimedialità, creazione e condivisione di contenuti. Le opportunità sono molto numerose, cambiano anche le caratteristiche e il ruolo del consumatore. Per esempio, ci ricorda l'autore che da consumatore passivo di informazioni, lo spettatore televisivo, ciascuno di noi si sta progressivamente trasformando in uno spettautore con la maiuscola, prosumer, che crea o modifica contenuti esistenti secondo i propri bisogni, e in un commentautore che discute dei prodotti e che condivide le proprie riflessioni con gli amici. Il risultato di questi processi è una nuova forma di pubblicità, l'advertising 3.0, che ha come principale obiettivo la co-costruzione del prodotto e dei valori che incarna all'interno di una relazione continua con il consumatore e la sua comunità di riferimento. E poi c'è il lato oscuro, naturalmente, dei social network, che comportano molte disfunzioni, come le chiama l'autore, che assumono varie forme. Ce ne dà una breve descrizione. L'autore parla di cambiamento di identità, di comportamenti aggressivi, di violazione e abuso dell'informazione. Risultato, tutti noi ci dobbiamo abituare a un'identità fluida, con un sovraccarico di informazioni e con tutti i rischi che questo comporta. Infatti, conclude Riva, se un uso moderato dei social media inferiore al 20% del tempo lavorativo, circa 2 ore al giorno, può produrre un aumento di produttività, il superamento di questa soglia può nascondere un vero e proprio disturbo di dipendenza da internet, che ha un impatto significativo sulla produttività individuale e sulla dimensione relazionale. Sempre per Primulino si accostano agli stessi temi Luciano Paccagnella, che è un sociologo dell'informazione a Torino, e Agnese Vellar, che è un social media consultant, nel libro Vivere Online, identità, relazioni e conoscenze, Mulino, vi ho detto, 202 pagine, 14 euro. I temi centrali qui sono l'identità online, le relazioni sui social media, le forme della conoscenza costruite e diffuse attraverso la rete, e mi soffermo un attimo su questo per ricordare l'importanza di 3V, il volume, la velocità e la variabilità, che dominano queste nuove forme di conoscenze. Insomma, concludono gli autori, corriamo il rischio che la nostra esperienza online diventi gratificante semplicemente perché, più o meno consapevolmente, ci misuriamo solo con ciò che non mette davvero in discussione le nostre certezze. Questo fenomeno sta cambiando proprio grazie alle possibilità di ricevere delle informazioni esattamente profilate, grazie agli algoritmi di cui abbiamo parlato, su quello che siamo individualmente, così da inserirci in bolle che rappresentano un mondo piano, pulito, coerente e rassicurante. Nella nostra bolla ci siamo solo noi, scrivono gli autori, i confini della bolla sono invisibili, non abbiamo scelto di entrarci ed è sempre più difficile tentare di uscirne. Questi temi hanno un impatto anche sulla politica e sulla democrazia, e di questo si occupa Luigi Ceccarini, che è un docente di scienza politica a Urbino, che ha scritto La cittadinanza online, 230 pagine, 14 euro, sempre per il Mulino. Qui si parla di come cambi la posizione del cittadino e il concetto stesso di cittadinanza nelle modalità nuove che assumono le nuove tecnologie. Ci sono vari aspetti legati a questi temi, riconducibili spesso alle forme diverse di partecipazione che il cittadino può oggi praticare proprio attraverso le nuove piattaforme tecnologiche. E per questo si parla sempre più spesso di disintermediazione attraverso forme di partecipazione diretta e di iperdemocrazia o di postdemocrazia o di democrazia ibrida indiretta dei pubblici. Tante formule per significare la confusione nella quale siamo immersi. In questa tendenza si collocano e fioriscono le spinte populiste antipolitiche. Una prospettiva pericolosa, secondo l'autore, perché queste spinte rappresentano il fenomeno che altera dall'interno la logica della democrazia rappresentativa, richiamando in molti casi le virtù della democrazia diretta, senza filtri e mediazioni, dove il leader carismatico è testimone di un appello contro l'elite, le istanze rappresentative e gli attori istituzionali che le interpretano. Dunque, il variegato fenomeno populista sostiene l'idea che la democrazia possa fare a meno della funzione svolta dal partito nel sistema politico, anche ricorrendo alle forme della democrazia via web. Il movimento e la cultura antipolitica fondano le radici in un atteggiamento critico, quando non di aperta contestazione, del metodo democratico di decisione. E quindi, come sentite, siamo proprio al centro di molti dibattiti sulla politica di oggi. E un linguista ci introduce ai segreti di uno dei social network più noti, cioè Twitter, la cui breve storia, questo è il titolo del libro, raccontata da Massimo Arcangeli per Castelvecchi, 170 pagine, 16,50 €. Questo è un libro scritto in occasione del decennale del primo tweet cinguettato il 21 marzo del 2006. E qui troviamo una divertente e interessante analisi di come Twitter abbia cambiato il modo di comunicare e anche di scrivere. E non a caso c'è anche un twittabolario che completa questo libro. E a questo punto il confettino. Sono cominciate le vacanze, buona estate a tutti i bambini. Non dimentichiamo che in vacanza vanno anche gli animali, come ricorda il libro di Marianne Dubuc, Le vacanze degli animali, tradotto da Paolo Cesari per Orecchio e Cerbo, 13,90 €, in cui una famiglia di topolini riesce a conciliare la vacanza con l'ostinazione del papà postino a non sospendere il proprio lavoro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.